A bordo campo di Dario Ricci. Ben ritrovati qui a bordo campo. Beh, lo sapete, ci piace un po' da qualche tempo indagare intorno ai problemi, ai pregi, ma ai difetti del calcio nostrano. Ebbene, allora, continuiamo questo viaggio oggi e scendiamo di un piano, non parliamo della Serie A dei campioni che fra poco scenderanno in campo, ma andiamo nella cadetteria, nella Serie B, in Serie B che raccoglie piazze storiche del nostro calcio, è bacino di giovani, ma anche campionato la cui sopravvivenza è spesso minacciata dallo strapotere mediatico di quelli del piano di sopra. Insomma, tanti pregi, anche tanti problemi, tanti nodi da sciogliere. Di tutto questo oggi parliamo con il nostro ospite, che è Andrea Abodi, presidente della Lega Calcio di Serie B. Benvenuto presidente a Radio 24 e qui a bordo campo. Grazie a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, presidente Abodi, Torino, Brescia, Juve Stabia, Nocerina, Bari, insomma, sono solo alcune delle grandi piazze che quest'anno sono rappresentate e prendono parte al campionato di Serie B. Si parla tanto di quello che accade ai piani superiori, presidente, ma non è che forse la vera anima del calcio italiano è proprio la serie cadetta, il suo lato B? Quantomeno equivoca l'affermazione, ma prendiamo il lato positivo del termine. A citarne qualcuna si fa un torto alle altre. Lei ne ha citate alcune, ma ce ne sono tante altre che fanno parte della nostra piattaforma, e sarebbe ingeneroso e sarebbe anche presuntuoso però pensare di sfidare chi sta al piano superiore, che rappresenta un po' la locomotiva del sistema. Noi siamo una bella piattaforma che cresce, è cresciuta in quest'ultimo anno, abbiamo avuto la fortuna per certi versi di vedere ulteriormente arricchito il nostro patrimonio sportivo e il bacino di utenza. Siamo passati da 13 milioni a 17 milioni di bacino di utenza di riferimento delle nostre 22 squadre, e basti pensare che la Serie A ne ha 23, e questo fa capire che dal punto di vista quantitativo stiamo crescendo dignitosamente. Dal punto di vista sportivo la valutazione la devono fare gli osservatori, quindi la dovete fare voi, e soprattutto devono farle i tifosi. Se dobbiamo misurare il livello di consenso dei nostri tifosi, il più 30% negli stadi è già un indicatore positivo. Diciamo che non siamo soddisfatti, perché non siamo mai soddisfatti, perché dobbiamo, secondo me, cercare sempre di fare di meglio, però evidentemente forse siamo sulla buona strada. Presidente, era circa il 2005 quando si discuteva della Serie B al sabato pomeriggio. Ricordo manifestazioni popolari dei sindaci che non volevano spostare il mercatino del sabato nei vari centri provinciali. Direi che è un ricordo ormai sbiadito, scommessa vinta. Ma secondo me la complementarietà nel calendario nel medio periodo ha prodotto già degli effetti positivi. La non sovrapposizione con la A indubbiamente ci consegna uno spazio che in qualche maniera è sottratto forse a dinamiche familiari, ma questo lo sarebbe stato anche di domenica, che purtroppo sconta il fatto che ancora molte attività il sabato pomeriggio sono aperte, quindi abbiamo nel breve pagato il prezzo, ma nel medio periodo già stiamo dando risultati. Ancora oggi ci sono comuni che ci chiedono e società che ci chiedono, magari quelle neopromosse o retrocesse, di poter derogare. Abbiamo tenuto ferma la decisione di mantenere il sabato alle 15, adesso oltre al sabato del villaggio c'è il sabato della B, e mi sembra che tutto sommato ci stiamo tutti abituando a questo appuntamento. Insomma, appuntamento da rima baciata, però mi interessa sapere il suo parere o quello che prova quando sente magari un presidente come De Laurentiis che ipotizza la Superlega europea e poi un campionato di Serie A con le retrocessioni bloccate, così come avviene ad esempio nello sport americano. E la B nessuno ci pensa? Alla B ci dobbiamo pensare noi principalmente, quindi poi sta a noi essere presenti nel dibattito e soprattutto dimostrare con i fatti che siamo comunque un campionato vivo, vivace, con un consenso crescente. D'altro canto credo che il contributo che dà il presidente De Laurentiis è comunque un contributo di vivacità progettuale. Poi alcune cose sono figlie di una sua esperienza, che è un'esperienza di altra natura. che subisce un po' il fascino americano. Noi siamo portatori di una tradizione che è tipicamente europea e direi altrettanto tipicamente italiana, nella quale la competizione è aperta e non è per franchigie, quindi non ci sono soggetti che assumono stabilmente, strutturalmente il diritto di partecipare a un campionato e altri che sono condannati a starne fuori. Si farebbe anche fatica a stabilire quali sono i criteri che determinano la griglia del campionato a franchigie. Diciamo che il tema è anche un altro, che dobbiamo certamente rivedere un po' gli assetti dei campionati, i format, il numero delle società professionistiche. Su questo dovremmo misurarci più di quanto siamo riusciti a fare in questo ultimo anno, e il tavolo, chiamiamolo così, di confronto delle leghe è in grado di portare in seno al Consiglio federale delle proposte finalmente armonizzate tra loro e non disarticolate come è stato fatto fino ad oggi. Insomma, il nostro è un sistema che non si è spesso comportato come tale, è sempre stato molto più facilmente, molto più comprensibilmente fino a un certo punto, la somma di interessi disarticolati. Oggi dobbiamo iniziare a ragionare tutti assieme, la A con la B con la Lega Pro. Presidente, comunque in quest'ottica vi toccherà una cura dimagrante anche a voi, e ve la dovrete vedere con l'Asso Calciatori, che non ha nessuna intenzione di ridurre questo numero di squadre. La cura dimagrante è già programmata, nel senso che nei prossimi, saltando il prossimo campionato 2012-2013, dal 2013-14 al 14-15 noi progressivamente scenderemo a 20, lo abbiamo già deciso tutti assieme, ne abbiamo parlato anche con l'Associazione Calciatori, che è d'accordo. Ma guardi che alla fine l'Associazione Calciatori, che giustamente deve difendere anche l'aspetto, chiamiamolo così, anche se può sembrare una forzatura, occupazionale, poi si rende conto che è meglio avere meno squadre professionistiche, meno atleti tesserati, ma che hanno un rapporto sano con i propri datori di lavoro, piuttosto che una dimensione gonfiata nella quale però, come tutte le dimensioni artefatte, chi paga spesso le conseguenze di questo squilibrio sono proprio i giocatori, che magari non percepiscono lo stipendio. Non succede più nella nostra dimensione, perché la B da questo punto di vista già nel campionato scorso ha dimostrato di saper rispettare gli impegni reciproci. Sotto di noi la Lega Pro sta facendo un grandissimo sforzo per assumere una dimensione sostenibile, però l'Associazione Calciatori sta dimostrando di guardare un po' avanti, ha dato ampia disponibilità al confronto su questo tema. Senta, lo sciopero di quelli del piano di sopra, e alludo ai calciatori alla Serie A, che effetto le ha fatto? Evidentemente c'è stata amarezza in quel periodo, che si combinava con una qualche soddisfazione per il fatto di avere per 3 giornate le attenzioni tutte concentrate su di noi. È evidente che se noi oggi possiamo considerarci alla vigilia della firma del nostro contratto, è perché il tavolo tra Lega di Serie A e Associazione Calciatori ci ha consegnato, dopo una lunga negoziazione, una dimensione contrattuale che ci sta portando dei benefici in prospettiva anche alle nostre società. Quindi se oggi noi siamo in grado di firmare senza conflitti e con qualche utilità reciproca, è perché quel tavolo ha prodotto degli effetti positivi. Va superato invece la Lega Pro per quello che riguarda il meccanismo di contrasto al fenomeno delle scommesse illegali clandestine. Perché? Perché la Lega Pro, come ha ricordato il presidente Macalli qualche settimana fa, proprio qui a Bordocampo, ha scelto un ente certificatore terzo, no? Una società straniera che certifica la trasparenza e la linearità delle gare del campionato di Lega Pro. Ecco, presidente Abodi, le faccio risentire proprio quanto il presidente della Lega Pro Macalli aveva dichiarato qui a Bordocampo. E abbiamo preso questa società svizzera che lavora anche operativamente in Inghilterra, che controlla la Bundesliga anche, eccetera, che è la Sportradar. Noi abbiamo introdotto anche un codice etico per primi in Italia con le nostre società, e abbiamo monitorato e stiamo monitorando tutte le partite nostre con questa società, che è forse la prima in Europa. Ecco, queste le dichiarazioni del presidente Macalli. Allora, presidente Abodi, queste le decisioni della Lega Pro, e la cadetteria come si sta muovendo per contrastare questo fenomeno delle scommesse illegali? Intanto il tema è controverso, nel senso che può assumere anche profili inquietanti. C'è necessità che si faccia fronte comune per rispondere a un attacco che parte dall'esterno del mondo del calcio e che poi colpisce anche all'interno, perché colpisce alcuni soggetti deboli per tante ragioni di debolezza, colpisce la reputazione e la credibilità della nostra competizione, quindi mina alle fondamenta quello che è il nostro movimento. Devo dire che la risposta della Lega Pro è stata brillante, è stata un'intuizione positiva. Noi abbiamo dato fino adesso un'altra risposta, nel senso che ci siamo affidati ad un soggetto altrettanto autorevole e per certi versi anche più istituzionale, che sono i monopoli di Stato, perché sono loro per noi il soggetto certificatore, in una dimensione che è tutta domestica naturalmente, ma i monopoli hanno un osservatorio anche internazionale per il ruolo che ricoprono nello scacchiere domestico in relazione al mercato internazionale, quindi sono scelte diverse, tutte e due efficaci, ma non risolvono il problema, perché il tema, come è già stato detto da soggetti più autorevoli di me, il tema è internazionale e assume profili criminali che non possono certo essere risolti con il semplice monitoraggio. Credo che la cosa importante è aver fatto comunque fronte comune con la federazione nel tavolo tecnico che il Ministero degli Interni ha costituito con i due organismi, uno consultivo e uno operativo, che tende ad affrontare il problema in termini proprio di rilevanza penale, di contrasto alla criminalità, e credo che quella è una prima risposta. Il secondo livello di risposta, se me lo consente, dipende dalla nostra capacità al nostro interno di fare informazione, prevenzione, diciamo così, informativa nei confronti dei nostri tesserati. I nostri tesserati devono sapere che hanno un privilegio straordinario, che è quello di giocare in un mondo di grandi emozioni e anche di qualche soddisfazione. Sanno che questo incantesimo si può rompere in qualsiasi momento, nel momento in cui soprattutto viene meno il patto che c'è tra il tesserato e il tifoso relativamente alla lealtà e alla probità e alla correttezza. E le scommesse sportive sono a loro precluse, ai nostri tesserati, e direttamente e indirettamente. Noi faremo una campagna importante di informazione all'interno, anche se si dovrebbe dare per scontato. Sono convinto che oltre al discorso del monitoraggio produrrà effetti questo secondo livello di intervento, perché i nostri ragazzi non devono sottovalutare il tema, perché come hanno costruito una carriera con anni di attività, di allenamento, di sacrificio, possono perderlo in un minuto, in un secondo, nel momento in cui cadono nella trappola di soggetti che con il nostro mondo non devono avere niente a che fare. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo, ancora insieme con il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi. Tema caldo in relazione al campionato cadetto è l'utilizzo e la valorizzazione dei giovani. E allora, presidente, le faccio sentire una recente dichiarazione del CT dell'Under 21, Ciro Ferrara, proprio a proposito del difficile rapporto del nostro calcio con i suoi giovani talenti. Sentiamo un po'. Penso che adesso in questi ultimi anni le società stanno investendo molto di più nei settori giovanili e un pochettino tutto l'ambiente che deve crescere da questo punto di vista, perché a volte si vanno a prendere magari degli stranieri con la stessa età dei nostri e chiaramente una volta che li vai ad acquistare, a comprare, a fare determinati investimenti è anche più facile buttarli in campo, e dovrebbe essere così per i nostri giovani, purtroppo non lo è, però forse proprio il calcio italiano evidentemente non è pronto perché con i giovani hai bisogno di un percorso che può essere vincente alla lunga, magari più rischioso se vogliamo, che però alla lunga può essere assolutamente vincente, no. E perché per tanti motivi. Però nel calcio di tempo te ne danno veramente poco. Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara, Cesare Prandelli, presidente Abodi, tutti a chiederle di iscrivere una squadra giovanile italiana al campionato, fuori classifica, per far crescere un po' di giovani talenti azzurri, e lei sempre a dir no, non è la soluzione che mi piace. Beh, insomma, ci spieghi un po' perché, perché a noi invece la cosa alletta parecchio, un po' lo fanno in Spagna, nelle serie minori, perché non possiamo farlo anche noi? Beh, diciamo che negli altri paesi fanno cose diverse a seconda del paese. In Spagna fanno una cosa, in Germania ne fanno un'altra, in Inghilterra un'altra ancora. In linea di massima, spero di essere chiaro anche da questo punto di vista, io peraltro per indole non sono per per dire no. Intanto dico vediamo, ragioniamo, cerchiamo di capire come poter perseguire obiettivi di interesse comune. Allora, noi intanto abbiamo la necessità di dare sempre maggiore dignità alla nostra competizione e mi sembra, per ritornare alla prima domanda che lei mi ha fatto, che i risultati non siano così negativi, ma non sono neanche negativi nella direzione dell'utilizzo di giovani calciatori. E l'indicatore più importante, anzi i due indicatori principali, sono l'età media dei nostri giocatori, che scende progressivamente drasticamente di anno in anno, almeno negli ultimi due anni, e la convocabilità dei nostri giovani nella nazionale, almeno under 20 e under 21. Se lei dovesse chiedere a Ciro Ferrara qual è il campionato di riferimento, oggi le direbbe, come ha detto a me l'altro giorno a Coverciano, la Serie B, e la stessa cosa ha detto Sacchi. Quindi vuol dire che quello che è il progetto, la proposta avanzata qualche mese fa da Albertini, da Sacchi e dallo stesso Prandelli di inserire nel nostro campionato una rappresentativa federale Under 21, è stato già fatto proprio dalle 22 società, c'è un impegno di Lega diffuso che non ha bisogno di innesti innaturali. Io credo alla complementarietà delle funzioni, la federazione fa alcune cose importanti, direi fondamentali e centrali, le leghe fanno altri mestieri. Se la federazione fa il mestiere della Lega diventa complicato, non se ne avverte il bisogno. C'è anche l'altra proposta, c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero le seconde squadre di società di Serie A che vanno a giocare o in Serie B o in Lega Pro. Ora in Lega Pro c'è il presidente Magalli che brillantemente risponde nella tutela dei suoi interessi. Io rispondo per la nostra piccola famiglia, ma le rispondo esattamente come le ho risposto per i giovani, perché poi la motivazione di queste seconde squadre è legata a due fattori. Devono giocare i giovani e così abbiamo possibilità come società di Serie A. Abbiamo rose molto ampie e evitiamo il problema dei fuori rosa con le seconde squadre. Allora, primo tema, risposta già data, i giovani già giocano in Serie B, giocheranno sempre di più e dalla Serie B usciranno secondo me sempre più talenti, perché la scelta di fondo le nostre società l'hanno fatta. Secondo, le rose molto ampie, lei mi insegna, in Serie B come lei sa, gran parte dei tesserati fanno riferimento a liste bloccate, abbiamo una sorta di tetto ai tesseramenti, salvo per gli under 21 che invece sono liberi. In Serie A questo non succede. Allora, se una società di Serie A ha 30-40 tesserati, ce li ha per scelta, non per obbligo né per agguato di mercato. Allora cambino un po' le politiche, selezionino meglio. D'altro canto, la Serie B, così come la Lega Pro, sono campionati che poggiano in maniera straordinaria sulla territorialità. Io non credo a un modello nel quale i marchi principali occupino le serie minori, non ce n'è bisogno. La nostra è una storia anche di competizioni tra campanili, tra gonfaloni, tra città, e mi piacerebbe poterla preservare. E beh, insomma, i Guelfi e i Ghibellini, vederli sul campo di calcio ci si diverte sempre parecchio. Presidente Abodi, le chiedo proprio in chiusura, ringraziandola, ha il tempo ogni tanto di vedersi qualche partita, di farsi un'idea, chi viene in Serie A quest'anno? Allora, intanto io ne vedo almeno una settimana fisicamente, perché ho sempre cercato di interpretare la Lega come soggetto che si sposta, non è che sta arroccata nel palazzo di Via Rosellini, quindi è nostro compito andare sul posto, capire, conoscere gli umori, i problemi, le strutture, e poi riteniamo che la presenza fisica della Lega sul posto sia anche un elemento di stimolo a far sempre meglio da tutti i punti di vista. Per quanto riguarda le previsioni, da presidente non ne faccio in modo esplicito, posso fare delle valutazioni in senso generale. Abbiamo tante squadre che competono, e lo si vede già da queste prime sei giornate, per l'obiettivo principale. Sarà una corsa lunga, lunghissima, che durerà fino a maggio, che vedrà 7-8 squadre secondo me alla fine competere fino all'ultimo per una promozione diretta o per i playoff, e questa è una tradizione che si sta consolidando e che fa della Serie B nuova versione, da quando la Lega si è costituita come soggetto autonomo, cioè dallo scorso anno, fa della Serie B un campionato sempre vivo che non ha momenti morti, perché laddove non si compete per l'obiettivo massimo, si compete per l'obiettivo minimo, che è quello di cercare di rimanere in Serie B e quindi evitare le retrocessioni dirette e i play-out. Ed è questo l'auspicio più che la previsione che mi faccio, cioè di un campionato che si confermi fino all'ultima giornata, da vivere tutto d'un fiato. E questo è un elemento anche di garanzia sulla regolarità di ogni partita e quindi del campionato stesso. E allora, presidente Abodi, che dirle? Grazie di essere stato ospite a Bordocampo, a Radio 24. Buon campionato, ma chiaramente da qui a giugno la aspettiamo ancora qui a Radio 24. Io ringrazio lei, Radio 24, e i vostri radioascoltatori, perché il vostro è un palcoscenico prezioso e tra l'altro è una prospettiva diversa per vedere il calcio in generale e il nostro piccolo pianeta Serie B, e mi fa piacere che anche da parte vostra ci sia attenzione nei nostri confronti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il nostro blog e anche attraverso l'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come sempre, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.